fine, eccoci qua. Figaro, dammi man, poter del mondo, che tempo indiavolato. Tempo da innamorati. Ehi, fammi lume, dove sarà Rosina? Ora vedremo, eccola appunto. Oh, mio tesoro! Indietro, anima scellerata, io qui di mia stolta credulità venni soltanto a riparar lo scorno, a dimostrarti quel sono e quale amante perdesti, anima indegna e sconoscente. Io son di sasso. Io non capisco niente. Ma per pietà. Taci, fingesti amore per vendermi alle voglie di quel tuo vil conte, alma vivo. Al conte, asse delusa, me felice. Mira mio tesoro, alma viva son io, non son l'indoro.